Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci arrivati all'appuntamento con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, oggi con il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, parliamo ogni tanto anche di vicende che si concludono bene, come quella di una bolletta, una super bolletta del gas, 50.000 euro, che era arrivata ad un'anziana veneziana. La vicenda si è risolta bene, ma partiamo appunto da quando arrivò questa bolletta, Carlo. Sì, parliamo di una vicenda che fortunatamente si ha avuto un esito, un epilogo molto veloce anche e positivo, però certamente dobbiamo concentrarci anche sul valore della bolletta, perché fortunatamente questa volta si tratta di una bolletta pazza da 50.000 euro che è stata recapitata a una signora di 85 anni e che per fortuna l'ha intercettata il figlio. Diversamente non so se l'avrebbe ricevuta direttamente l'intestatario, se saremmo a parlare in questo modo, perché veramente credo che chiunque possa ricevere una bolletta di questo importo rischia veramente di star male. E come hai detto tu, una vicenda di poco tempo fa che fortunatamente si è riuscita a risolvere bene, ma che ci fa sempre a dover riprendere un argomento molto ostico a tutti, che è quello delle bollette. 50.000 euro, ma alla fine come siete riusciti a risolvere la questione? Beh, è chiaro che nel caso di questa vicenda l'Adico ha subito mandato una diffida legale alla società fornitrice, che in questo caso era l'ENI, spiegando che una cosa del genere non poteva avere significato, considerato anche la tipologia dell'immobile e l'utente che insomma ci abitava, chiedendo chiarimenti e soprattutto indicandole una verifica, una revisione dei conteggi sulla base di quello che è un po' un loro calcolo. Certamente la vicenda pratica si è bloccata subito in attesa di fare tutti i dovuti approfondimenti e alla fine è emerso come ci sono stati degli errori di trascrizione su quelli che sono stati dei consumi presunti rispetto a quelli reali, e quindi con tanto di bolletta, con tanto di stonatura di bolletta, alla fine si è andato a concludere quello che era un importo richiesto. Però, come detto, fortunatamente la signora è stata assistita da un figlio, il quale è stato anche lesto venire ai nostri uffici e si è subito adoperato per insomma trovare una soluzione, cosa che magari per importi diversi e molte altre persone non si sarebbero attivate in questo modo. Immagino che nel caso di questa anziana non ci fosse, in questo caso per sua fortuna, il RID automatico in banca. Sì, perché poi immaginiamo che ci sono casi in cui normalmente le bollette arrivano dopo che si è già proceduto con l'addebito in banca. Adesso immaginiamo se una persona che magari si trova ad avere pochi spiccioli vive un addebito di 50.000 euro e magari riceve il cartaceo 15 giorni dopo. Queste cose ci fa chiaramente fare una riflessione e capire che insomma non è permesso che queste cose possono ancora accadere nel 2017. Adesso per esempio l'Adico è riuscito a risolvere bene questa vicenda perché ha una stretta collaborazione con Eni via delle vie preferenziali, dove quando accadono queste cose, senza attivarci quello che è un iter istruttorio e quelle che sono poi le lungaggini per risoluzione, nel giro di poche settimane abbiamo risolto tutto. Però immaginiamoci se questa avesse avuto un addebito di questa cifra, come avremmo dovuto essere qui a parlare in maniera, in toni completamente diversi, e come ci sarebbero complicate anche tutto l'iter di rimborso e con tutti i rischi poi anche gli sconfinamenti e quant'altro. Se invece ci fosse stato il RID automatico, non sarebbe stato anche, diciamo, tra virgolette, obbligo anche morale, diciamo, magari di un operatore bancario avvisare, verificare, soprattutto nel caso che magari lo sportello sia vicino a casa e che questa persona sia conosciuta, magari una bolletta che normalmente è di qualche centinaio di euro, immagino, che arrivi a 50.000 può destare un sospetto. Ma bollette che nel caso della signora erano di qualche decina d'euro addirittura, perché ricordiamo che la signora è un'anziana che viveva da sola, però certamente nel caso di un video di un addebito automatico avremmo dovuto stare qua a parlare di scenari catastrofici o apocalittici, perché poi se uno ha la disponibilità magari può anche organizzare la pratica in un certo modo, ma noi immaginiamo quando ci viene un sollecito di pagamento con un addebito conseguente e non abbiamo i soldi, scatta anche tutto quel meccanismo di insoluti, di iscrizione CRIF, cattivo debitore, eccetera. Quindi ci saremmo trovati dentro un tunnel che certamente avrebbe comportato un dispendio di energie e di lavoro e poi una quantificazione di danni che certamente è anche difficile adesso poter immaginare, ma quello che dobbiamo stare qui a capire è come mai oggi accadono queste cose, perché al di là che le conseguenze sono anche difficili da quantificare, la cosa più sbalorditiva sono queste situazioni incresciose, perché fin tanto che ragioniamo su un conguaglio di poche centinaia di euro è una cosa, perché poi qua si possono bloccare, si possono abilitare, si possono definire dei piani di rientro, ma di fronte a cifre di questo genere possono scattare dei meccanismi addirittura imprevedibili che noi definiamo effetto domino. In chiusura, Carlo, che consigli possiamo dare dovessero arrivare, in altri casi speriamo di no, delle super bollette così anomale? Innanzitutto la cosa più importante è sempre cercare di fare le letture ed evitare questi automatismi di addebiti su consumi presunti, perché poi possono accadere delle cose incredibili. Ogni tanto io aggiungo fare anche una verifica dei contatori se funzionano, disattivando tutte le utenze e accertandosi che questi non continuino a rilevare consumi. Facciamo un esempio: l'acqua, tutti i rubinetti chiusi, il contatore dell'acqua non deve girare. La stessa roba, quello elettrico, se non hai l'utente che assorbe l'energia e il contatore elettrico non deve mettere impulsi, questa roba deve essere quella del gas. Se non c'è una caldaia o un impianto di riscaldamento, il contatore non deve per forza stare fermo. Qualora non si verificasse delle situazioni che non sono chiare o se ha dei dubbi, è meglio consultare un esperto, e se dovesse invece trovarci con questi addebiti o con queste richieste di pagamento esose, bloccare subito la richiesta, perché c'è l'obbligo da parte del gestore di non procedere con richieste di pagamento fin tanto che non si arriva alla chiarezza della pratica. Tutte situazioni che comunque l'Adico è abituato anche a gestire, e che questo tipo di consulenza possiamo fornire tranquillamente anche durante tutta l'estate, perché ricordiamoci che noi non andiamo in ferro. Perfetto, allora associazionedifesaconsumatori.it per ulteriori informazioni. Grazie Carlo, alla prossima settimana. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.